Componimento cinquantesimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Nella stagion che il ciel rapido inchina verso occidente e che il dì nostro vola a gente che di là forse l'aspetta, veggendosi in lontan paese sola, la stanca vecchiarella pellegrina raddoppia i passi e più s'affretta. E poi così soletta, al fin di sua giornata, talora è consolata d'alcun breve riposo, ov'ella oblia la noia e il mal della passata via. Ma lasso ogni dolor che l dì m'adduce cresce qualor s'invia per partirsi da noi l'eterna luce. Come il sol volge le infiammate rote per dar luogo alla notte, onde discende dagli altissimi monti maggior l'ombra, l'avaro zappador l'arme riprende e con parole e con alpestri note ogni gravezza del suo petto sgombra. E poi la mensa ingombra di povere vivande, simili a quelle ghiande, le qua fuggendo tutto il mondo onora. Ma chi vuol si rallegri ad ora, chi pur non ebbi ancor, non dirò lieta, ma riposata un'ora, né per volger di ciel né di pianeta. Quando vede il pastor calare i raggi del gran pianeta al nido ov'egli alberga, e imbrunir le contrade d'Oriente, drizzasi in piedi e col'usata verga, lassando l'erba e le fontane e i faggi, move la schiera sua soavemente. Poi lontan dalla gente, o casetta o spelunca, di verdi frondi ingiunca. Ivi senza pensier s'adagia e dorme. Ahi, crudo amor, ma tu allor più m'informe, a seguir d'una fera che mi strugge la voce e i passi e l'orme, e lei non stringi che s'appiatta e fugge. E i naviganti in qualche chiusa valle gettan le membra poi che il sol s'asconde sul duro legno e sotto all'aspre gonne. Ma io, perché s'attuffi in mezzo l'onde e lasci Spagna dietro alle sue spalle, e Granata e Marocco e le colonne, e gli uomini e le donne, e il mondo e gli animali acquetino i lor mali, fine non pongo al mio ostinato affanno. E duolmi ch'ogni giorno arroge al danno chi son già pur crescendo in questa voglia ben presso al decim'anno, né possi indovinar chi me ne scioglia. E perché un poco nel parlar mi sfogo, veggio la sera i buoi tornare sciolti dalle campagne e da solcati colli. I miei sospiri a me perché non tolti, quando che sia, perché no il grave giogo? Perché dì e notte gli occhi miei son molli? Misero me che volli, quando premier si fiso, gli tenni nel bel viso per iscolpirlo imaginando in parte, onde mai né per forza né per arte mosso sarà fin chi sia dato in preda a chi tutto diparte. Né so ben anco che di lei mi creda. Canzon, se l'esser meco dal matino alla sera t'ha fatto di mia schiera, tu non vorrai mostrarti in ciascun loco, e d'altrui loda curerai sì poco, ch'assai ti fia pensar di poggio in poggio, come m'aconcio il foco di questa viva petra ov'io m'appoggio. Fine del componimento.